24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi raccontiamo una storia di Livorno, ma che ebbe risalto in tutto il mondo. Il 1984 è l'anno del centenario di Amedeo Modigliani e a Livorno, la città dove Modigliani è nato e ha trascorso la sua giovinezza, si sta celebrando il pittore e lo scultore con una mostra curata da Vera e Dario Durbet. La mostra non ottiene il successo sperato di critica né di pubblico e allora Vera Durbet rispolvera una vecchia leggenda che a Livorno conoscono tutti. Nei canali della città sarebbero sepolte da 75 anni delle sculture autentiche di Amedeo Modigliani. Estate 1909. Amedeo Modigliani, ormai trasferitosi definitivamente a Parigi, torna a Livorno per un breve soggiorno. Affitta una stanza in via Gherardi del Testa, trascorre le sue giornate a scolpire. Alla fine dell'estate, quando si avvicina il rientro a Parigi, chiede consiglio agli amici del Caffè Bardi. Che fare di quelle sculture così pesanti e difficili da trasportare? La leggenda vuole che gli amici, ridendo, gli abbiano risposto: «Buttale nel fosso». Sentendosi incompreso e deriso, Modigliani allora avrebbe deciso di seguire alla lettera quello sciagurato consiglio. Qualcuno, tuttavia, a questa storia non ha mai creduto. Molti anni prima, nel 1984, nel tentativo di liberare la memoria del padre dalla leggenda, Jean Modigliani, la figlia, ha cercato riscontri della vecchia storia livornese senza trovare però nessuna conferma. Ho trovato che non c'era niente. Va a dire che ognuno raccontava una propria storia, che queste storie erano contraddittorie fra loro, e che probabilmente Modigliani, come un qualsiasi altro artista, non ha mai buttato le proprie opere in un canale. Eppure, nonostante Jean Modigliani abbia appena 2 mesi prima sostenuto che quelle teste non esistono, Vera Durbet, direttore del museo di Villa Maria di Livorno, non ha dubbi. Bisogna dragare i canali e cercare quelle sculture. Con l'aiuto dell'assessore della cultura del comune, Claudio Frontera, la Durbet ottiene il finanziamento per scavare nel fosso reale di Livorno. La pesca miracolosa, come la chiamano subito a Livorno, ha inizio il 16 luglio dell'84, così Mauro Calvesi, storico dell'arte. Vera, poverina, aveva queste certezze basate su fatti quasi superstiziosi. Ma adesso che cosa vuoi fare? Vuoi tirar fuori le teste di Modigliani dal fiume? Ma mi pare una cosa strana, gli dissi. E lei mi rispose: ah no, guarda Calvesi, sono certa, le sculture sono qui, in questo punto, lo sento. Nel punto esatto indicato da Vera Durbet, di fronte al vecchio mercato, la draga inizia l'operazione di recupero. Sotto il sole di luglio, molti livornesi aspettano lungo il canale che le acque restituiscano le leggendarie sculture di Modì. Livorno. Dopo 2 giorni di scavi è ancora nulla, si fa per dire, perché dalle acque melmose del canale che costeggia il Mercato Grande è venuto su di tutto, carrozzine per bambini e parti di automobili, ma non le 2 statue di Modigliani che fra non poche difficoltà e polemiche si stanno ricercando. C'era un'attesa, anche in quell'occasione la gente non è che desse molto credito a questa storia. Cosa fanno? Pescano fango, dicevano anche peggio, insomma. Si capiva che qualcosa doveva essere trovato per forza, no? Era Mario Cardinali, direttore de Il Vernacoliere. Giorno dopo giorno la draga lavora lungo il fosso, in quella torrida estate. Vera Durbet segue con tenacia il vano passare delle ore. L'attesa di Livorno intanto è diventata l'attesa dell'Italia intera. La suggestione della leggenda ha attirato l'attenzione dei giornali e delle televisioni di mezzo mondo. Così Altero Matteoli, all'epoca consigliere comunale di Livorno. Il fallimento non se lo potevano permettere, perché la delibera era stata una delibera che aveva avuto un po' l'approvazione di tutte. La città era stata coinvolta e quindi continuarono anche quando il buon senso doveva consigliare di smetterla questa ricerca, perché non si trovavano le teste. E proprio la caparbietà dell'amministrazione comunale che draga il fango del canale alla ricerca dei capolavori di Modì è un'occasione troppo ghiotta per l'irriducibile ironia livornese. Si ride a Livorno in quei giorni d'estate e la pesca miracolosa che va avanti ormai da 7 giorni diventa lo sfondo ideale per lo scherzo del secolo. Piero Luridiana. Pensai di fare uno scherzo, ma uno scherzo che fosse diretto appunto alle persone. E quindi dissi, chiamai i miei amici, dissi facciamo una scultura, un abbozzo chiaramente, perché nessuno di noi aveva la capacità tecnica di fare poi una vera scultura, in modo che dall'alto, da dove la gente guardava questa operazione, possa sembrare una statua di Modigliani. Luridiana, studente di 20 anni, chiama in aiuto i suoi amici di sempre, Michele Ghelarducci e Francesco Ferrucci. I tre si mettono subito al lavoro, trovano una pietra arenaria sufficientemente morbida e in poco tempo la scolpiscono a colpi di trapano, cacciavite e martello. In un paio di pomeriggi di lavoro siamo riusciti a produrre un'opera che poi alla fine pare non essere stata così mal giudicata da tutto il pubblico. Sarà stata l'una di notte più o meno, siamo arrivati proprio dove stavano effettuando le ricerche, tanto per non sbagliare l'abbiamo lanciata di fronte alla draga. E ahimè siamo stati anche visti da un testimone che il giorno dopo andò a segnalare l'accaduto. La mattina dopo, torno alle 10, passo, sento un gran fermento, mi fermo, domando a una signora, e questa molto emozionata, visibilmente sconvolta, hanno trovato una testa. Allora aspetto pazientemente il telegiornale dell'una e poi al telegiornale vedo la foto di una testa che non è la nostra. È la burla del secolo, conosciuta come la beffa di Livorno. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24, stiamo raccontando la storia dei falsi Modì, un caso da manuale per raccontare il lato più oscuro del mondo dell'arte. Una vecchia leggenda racconta che l'artista Amedeo Modigliani, non soddisfatto di 3 teste da lui scolpite, le avrebbe gettate in un canale a Livorno. L'amministrazione della città nel 1984, su spinta di Vera Durbet, si mette alla ricerca delle sculture di Modigliani. Ovviamente questo scenario diventa lo sfondo per lo scherzo del secolo. 3 ragazzi decidono di fare una scultura finta e gettarla nel canale. Ma improvvisamente il colpo di scena. Il 24 luglio del 1984 la draga tira fuori una testa che non è quella fatta dai ragazzi. La faccio, ma mamma mia, cosa abbiamo combinato? C'erano veramente e noi abbiamo rischiato addirittura di danneggiarle lanciandoci la nostra pietra. La testa emersa dal fango la mattina di martedì 24 luglio e battezzata immediatamente Modì 1 non è quella scolpita dai 3 studenti. Nel pomeriggio dello stesso 24 luglio però viene pescata un'altra testa detta Modì 2 e questa volta non ci sono dubbi, i ragazzi la riconoscono subito, è quella che hanno scolpito con il trapano e gettato la notte precedente nel canale. Così uno dei ragazzi, Michele Ghelarducci. Nessuno avrebbe mai pensato che potessero, diciamo che la stessa cosa potesse essere venuta in mente ad altri, quindi per me un'altra testa ritrovata era la prova che effettivamente invece c'erano. Dunque la leggenda era vera. Le sculture giovanili di Amedeo Modigliani sono state restituite dal fango dei fossi di Livorno dopo 75 anni. Da Livorno la notizia fa il giro del mondo. Dopotutto è un evento senza precedenti. Di Modigliani si conoscono infatti soltanto 26 opere scultoree sparse nelle collezioni e nei musei di tutto il mondo. Salvate dal fango dei fossi di Livorno, Modì 1 e Modì 2 sarebbero le uniche presenti in Italia. Il loro valore è di molti miliardi di lire. L'entusiasmo è subito travolgente, un successo personale di Vera Durbet che più di tutti ha lottato per l'operazione di recupero. E molta gente diceva, ma quella è matta. Lei insiste, asfissia. Ho asfissiato tutti, ho letteralmente contro tutto e contro tutti, io ci credevo nel profondo. Non c'è ombra di dubbio che questa è opera di Modigliani, ma basta vederle. Livorno in festa, il ritrovamento delle due teste di Modigliani è un evento eccezionale che fa il giro del mondo. Eppure tre ragazzi autori della beffa non ci capiscono più niente. Infatti loro hanno scolpito solo una testa, la cosiddetta Modi 2. Ma allora l'altra, chi l'ha scolpita? È davvero un'opera di Amedeo Modigliani? Così Piero Luridiana, uno dei tre ragazzi dello scherzo. Per qualche giorno viviamo nell'incertezza, chiaramente sappiamo la storia della nostra, non sappiamo niente dell'altra, però a un certo punto anche in noi comincia a fiorare il dubbio. Certo, bella non è, come non è bella la nostra del resto, anzi forse anche più brutta della nostra. Però siamo sempre molto fiduciosi, quindi aspettiamo giorno dopo giorno questo verdetto, per cui diranno: beh, qui qualcuno si è voluto divertire, si vede chiaramente che questa non può essere un'opera di un artista. Dopo pochi giorni dal ritrovamento, prima ancora delle analisi scientifiche, arrivano i giudizi dei più insigni storici dell'arte. Il primo a vedere le teste è Cesare Brandi, ordinario di storia dell'arte all'Università La Sapienza di Roma, che esclama: sono di Modigliani, hanno una luce interiore. In quelle due scabre pietre c'è l'annuncio, c'è la presenza. Gli fa eco Carlo Ludovico Ragghianti, docente di storia dell'arte alla Normale di Pisa. Queste opere, oltre ad essere commoventi, anche per la subitaneità della loro apparizione, sono fondamentali per Modigliani e per la scultura moderna. Chiude il coro il più famoso di tutti, Giulio Carlo Argan. Una di esse, più elaborata, mostra finezze di segno e di taglio che sono inequivocabilmente di Modigliani. Ma il giudizio dei critici non basta, servono le perizie scientifiche che però, per ulteriore beffa del destino, sarebbero di competenza della sovrintendenza di Pisa, città da secoli rivale di Livorno, e i livornesi non accetterebbero mai di mandare le loro teste a Pisa. L'affermo di rischia di sfociare in una sommossa di popolo. Altero Matteoli. Le pietre non potevano uscire dalla città di Livorno e ci fu il sindaco, che è d'accordo naturalmente con l'assessore, un'ordinanza dove dovevano essere analizzate su Livorno, non potevano andare, e tantomeno a Pisa. Rino Giannini, perito scultore. Io sono andato a Livorno a vedere il ritrovato dei fossili e dalla mia relazione io ho segnalato che specialmente per Modi 2 c'era la configurazione che fosse una cosa che era stata molto nell'acqua e fosse stata scolpita parecchi anni prima, in quanto mancavano e le tracce degli utensili e c'era una specie di usura di tempo. Ecco. Anche i risultati delle analisi chimiche vanno nella stessa direzione. Il professore Marco Franzini, docente di scienze della terra, scrive: nulla emerge che sia contrario alle ipotesi che le sculture recuperate giacciano sul fondo dei fossi a partire dal 1909. Molte prove indiziarie indicano anzi come questa ipotesi sia corretta. Ormai non sembrano esserci più dubbi. Giudizi dei più grandi critici e quello dei tecnici della sovrintendenza concordano. Quelle due teste sono opere autentiche di Modigliani. Ma da Parigi si leva una voce fuori dal coro, e quella di Jean Modigliani, che invita ad analisi più accurate e una maggiore cautela. In realtà, dietro questo atteggiamento di prudenza, Jean Modigliani è sconvolta. Il 20 luglio, cioè 4 giorni prima del ritrovamento delle teste a Livorno, la figlia di Modigliani scrive una lettera al suo segretario, Christian Parisot. Caro Christian, per Livorno sono sconcertata. 4 sculture nel fosso false. Confermate. Come fare? Torna subito, non ho la forza. La tua presenza è indispensabile. Non ci vorrà credere nessuno. Telefonami subito. Sarò a casa. Ti abbraccio. Jean. Perché Jean Modigliani parla di 4 sculture nel fosso? Come fa a esserne a conoscenza 4 giorni prima che vengano ufficialmente ritrovate a Livorno? Di questa lettera torneremo a parlare più avanti nella trasmissione, ma intanto c'è un altro mistero. Il 26 luglio, scrivendo all'amico Carlo Pepi, gli preannuncia una visita a Livorno. Il giorno dopo, però, Jean Modigliani viene trovata agonizzante nel suo appartamento di Parigi e a Livorno non arriverà mai. Così Carlo Pepi. Questa morte in quei giorni proprio, capito, non mi è mai tornata. Questa donna aspettava proprio il pescaggio delle teste per morire, tutta la vita che ci aveva avuto per cascare dalle scale. Ma sia per Christian Parisot, che pure all'inizio ha avuto qualche dubbio, sia per la famiglia di Jeanne, intorno alla sua morte non c'è nessun mistero. Si è trattato solo di un tragico incidente. Insomma, la morte di Jeanne Modigliani è solo un'inquietante coincidenza oppure un delitto perfetto? Probabilmente a questa domanda è difficilissimo dare una risposta definitiva. In quell'estate dell'84, la notizia della morte della donna passa immediatamente in secondo piano rispetto all'esaltazione del ritrovamento delle teste attribuite a Modigliani. E a Livorno, nel fosso reale, si continua a scavare. Mercoledì 8 agosto 1984. Il fosso di Livorno restituisce un'altra testa, Modi 3, ancora più abbozzata e primitiva di Modi 1 e Modi 2, che nel frattempo vengono esposte in anteprima mondiale a Villa Maria, e la mostra finalmente ha un enorme successo. Dal primo ritrovamento è passato circa un mese. I tre amici capiscono che un bel gioco dura poco. Se non escono subito allo scoperto, la loro scultura Modi 2 passerà alla storia come una scultura autentica di Modigliani. La burla ormai è fuori controllo. Una volta che abbiamo viste andare vane tutte le possibilità che l'establishment decidesse che non era vera, almeno la nostra, a quel punto abbiamo deciso che, siccome non c'erano altre speranze, dovevamo dirlo. E il tempo è passato, perché a quel punto di nuovo si pone il problema: come si fa? I ragazzi si erano spaventati, perché la burla gli aveva preso un po' la mano, e quindi pensavano che era il caso di denunciare questa storia. I ragazzi quindi contattano il vice direttore di Panorama, Gianni Farneti, che chiede delle prove, delle garanzie. Ma i tre studenti non sono andati a mani vuote, con loro hanno delle foto. Mentre Panorama verifica il racconto dei ragazzi, niente però ferma la marcia trionfale delle teste. Domenica 2 settembre, il nuovo catalogo stampato a tempo di record e curato da Dario Dorbet è pronto. Si intitola Modigliani, due pietre ritrovate. Come hanno fatto? Mi sono sempre domandato a stampare, a produrre un catalogo pieno di analisi, pieno di commenti, in 10-15 giorni, in un momento in cui teoricamente mezza Italia frena e non fa più niente. Il giorno della presentazione del catalogo è anche l'ultimo giorno di gloria per l'amministrazione comunale di Livorno, l'ultimo in cui tutti abbiano creduto che l'antica leggenda sia in effetti diventata realtà. Il giorno dopo, lunedì 3 settembre, arriva in edicolo Panorama, che in prima pagina lancia lo scoop della confessione degli studenti. È il caso Modì. Ma a dispetto delle polemiche, i giornali locali, insieme ai critici che hanno dichiarato autentiche le tre sculture, insistono: quelle teste sono vere. Allora, le tre teste ritrovate nel fosso, non c'è ombra di dubbio che sono opere non soltanto di Modigliani, ma sono bellissime. Appena ho visto queste sculture ho avuto la certezza matematica che non ci fosse il benché minimo dubbio. Questi signori, se l'hanno fatta, come dicano, ci diano, la fotografia non è sufficiente per dimostrare che quella scultura non è originale. Ci diano una prova. In quanto l'hanno fatta? In 2 giorni? Ma via, siamo pazzi. Era vera Dorbet, che è sempre più convinta che quelle teste siano vere. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Stiamo raccontando la storia della beffa di Livorno. I tre ragazzi hanno confessato di aver organizzato lo scherzo, e cioè di aver fatto una scultura finta, averla gettata nel canale a Livorno. Ma non basta. Per provare che si è trattato effettivamente solo di una beffa, ci vuole la prova regina, la prova della televisione. Il 10 settembre, in uno speciale del TG1 di Alberto La Volpe, i ragazzi vengono chiamati in uno studio televisivo per scolpire in diretta un'altra finta testa di Modì. Dalla trasmissione sono assenti Vera Dorbet, che è in ospedale per un malore, e suo fratello Dario, e tutti i critici al centro delle polemiche roventi di quei giorni. Signore e signori, buonasera, eccoci qua con lo speciale di TG1 dedicato, come vi abbiamo ripetutamente annunciato nel corso della giornata, alla burla di Livorno. Sotto i riflettori della RAI, i ragazzi protagonisti dell'evento appaiono rilassati e sicuri di quello che fanno. Man mano che il martello scolpisce il volto di pietra, ogni residua tensione si scioglie. Ora, nel mirino, c'è l'assessore Claudio Frontera, chiamato a rispondere dell'operato della giunta comunale di Livorno. Noi non abbiamo niente da rimproverarci. La decisione a cui noi siamo arrivati dopo una lunga riflessione e d'intesa con due sovrintendenze è maturata facendo riferimento non tanto a una leggenda quanto a una vastissima documentazione che attestava della possibilità che questo episodio si fosse verificato davvero. Critici d'arte che hanno gridato al miracolo ora tacciono. L'unico che interviene con una dichiarazione registrata è Giulio Carlo Argan, che ribadisce il suo giudizio anche se riveduto e corretto. Queste opere sono opere che Modigliani ha escluso da quella che è la propria opera riconosciuta. Se sono autentiche, io direi che sono autografe. Ma allo speciale TG1 partecipa anche un altro illustre storico dell'arte, Federico Zeri, che in diretta fa una rivelazione clamorosa. Quando incominciarono a scavare, prima che si trovasse la testa, io ricevetti una telefonata stranissima di una persona che mi disse: vuole sapere una cosa curiosa, saranno trovate delle teste di Modigliani false. La telefonata è stata anonima, una voce di donna senza nome. A Zeri non rimane altro che fare un appello per chiarire definitivamente anche il mistero delle altre due teste, Modi 1 e Modi 3. Io vorrei che chi ha fatto le altre due venisse alla luce. Per favore, non avete paura. Eppure la denuncia di Zeri passa in secondo piano. A dominare la scena è la beffa, la burla, la risata di scherno che mette alla berlina i grandi studiosi dell'arte. Solo Vera D'Urbet resterà convinta per tutta la vita che quelle teste sono di Modigliani. Dopo lo speciale TG1 non c'è più dubbio. Luri, Diana e compagni sono davvero gli autori della testa cosiddetta Modi 2. Ma allora, chi ha scolpito le altre due teste? L'appello di Federico Zeri non cade nel vuoto. Appena tre giorni dopo, un altro giovane afferma di essere lui lo scultore che ha realizzato Modi 1 e Modi 3. Si chiama Angelo Froglia. Questa è la prima affermazione in pubblico. Tu affermi di aver eseguito la prima e la terza delle teste di Modigliani. Sì, senza dubbio. Appunto, mi premeva distanziarmi dal discorso della beffa, dal discorso dello scherzo. Angelo Froglia è preciso. Il suo non voleva essere affatto uno scherzo, bensì una provocazione per screditare il mondo dell'arte. Froglia ha 29 anni, è un pittore dall'innato talento che però per vivere fa il portuale. È già noto alle forze dell'ordine per aver partecipato con il gruppo Azione Rivoluzionaria a un attentato alla sede di un sindacato. Froglia, oltre che dello scalpello, si era munito di telecamera. Giovedì 13 settembre 1984. I carabinieri interrogano Angelo Froglia. Gli investigatori non sono convinti delle sue motivazioni e soprattutto sospettano fortemente che sia stato aiutato da altre persone. Ma Froglia è categorico, ha agito da solo e nessuno era a conoscenza del suo piano. Dunque le teste gettate nel canale di Livorno sono tre, Modi 1 e Modi 3 scolpite da Froglia, dice lui, per provocare il mondo dell'arte, e Modi 2 invece scolpite dai ragazzi di Livorno per una burla degna del film Amici miei. Insomma, a questo punto il caso Modigliani sembra archiviato come una delle più grandi beffe della storia dell'arte. Invece, nell'ottobre di quello stesso anno, tra le carte personali di Jean Modigliani, viene trovata una lettera anonima che la figlia dell'artista aveva ricevuto pochi giorni prima del ritrovamento delle teste nel fosso. Una specie di gara a chi fa meglio. Ti confermo, visto tutto. Ma sono talmente brutte. Si prepara una beffa colossale. Di una o qualche particolare. 45 centimetri circa. Una quarantina di chili. Occhi a rana sporgenti. Naso intagliato netto. Con labbroni in rilievo. Segni caratteristici inconfondibili. Vieni a Livorno. Ti darò le altre prove. E il seguito. Adesso ho troppa paura. Mi fanno la pelle. Di fronte a quella lettera, i carabinieri di Livorno tornano ancora una volta da Angelo Froglia. E Froglia, di fronte all'evidenza, non può più mentire. Questo interrogatorio era diretto, era coordinato da un alto funzionario dei carabinieri e lui a un certo punto mi disse: guarda, io non credo che tu fossi stato da solo, e mi mise praticamente sul tavolo una lettera. In questa lettera c'era il disegno inequivocabile della mia scultura di granito, quindi chiunque avesse scritto quella lettera aveva avuto modo di toccare quella cosa fisicamente, pesarla, misurarla, disegnarla. Chi ha scritto quelle lettere conosce le teste scolpite da Froglia, e Froglia alla fine ammette che qualcun altro aveva visto i falsi da lui realizzati. È un impiegato del comune di Livorno, Massimo Seghetti. Ma nonostante le nuove rivelazioni di Angelo Froglia e il giallo dell'altra lettera, quella missiva anonima ricevuta da Gian Modigliani, le indagini svolte nell'autunno del 1984 non portano a nulla. L'affare Modigliani dunque sembra andare definitivamente in archivio. Invece non è così, perché 7 anni più tardi, nel 91, un ennesimo incredibile colpo di scena. A Livorno infatti compaiono 3 teste nuove. Il proprietario si chiama Piero Carboni, è un carrozziere, è quello che ha da raccontare, riporta in vita la leggenda di Modigliani. Una maledizione sembra gravare sul pittore e scultore di origine livornese Modigliani. Ora le teste, che Modì pare abbia realmente scolpito durante un soggiorno livornese, tornano a galla di nuovo, ma non dalle acque dei canali medicei dove si diceva l'artista li avesse gettati. Le sculture, si dice, non finirono mai in acqua, ma vennero recuperate tra le macerie di una casa dopo un bombardamento nel 43. Piero Carboni racconta infatti di aver recuperato quelle sculture 48 anni prima sotto le macerie della casa di suo zio, Roberto Simoncini, detto Solicchio. Tutto ciò dopo il bombardamento alleato di Livorno. Ascoltiamo Piero Carboni e Nino Filastro, avvocato del Carboni. Vidi fra le macerie una di quelle sculture che mi ricordavo. Allora guardai meglio fra le macerie e ne ho trovate 3. Allora, Carboni da ragazzino giocava nel resede dello zio Simoncini Solicchio, dove in un sottoscala il Simoncini aveva ricoverato queste sculture, e i ragazzini le usavano per fare le porte quando giocavano a calcio, o per fare i segnali quando giocavano a pista con i tappini. Roberto Simoncini, che tutti conoscono con il soprannome di Solicchio, abita proprio di fronte al mercato centrale, dove ha un piccolo banco di ortaggi in via Gherardi del Testa, la stessa strada dove Modigliani nell'estate del 1909 prende in affitto 2 stanze per scolpire. Secondo la testimonianza di Carboni, che in qualche modo si riallaccia alla vecchia leggenda su Modigliani, l'artista a Livorno avrebbe scolpito 5 teste, sculture grandi e pesanti, troppo ingombranti per essere trasportate nel lungo viaggio verso Parigi. Ma al contrario di quello che racconta la leggenda, Modì non chiede consiglio agli amici del Caffè Bardi, chiede invece un aiuto pratico al Solicchio, che accetta di sistemare le sculture nel sottoscala del suo cortile. Le 3 teste scampate ai bombardamenti di Livorno e recuperate sotto le macerie trovano posto subito dopo la guerra nell'officina di Piero Carboni. Molti testimoni dichiarano di averle viste sin dagli anni 50 sopra un armadio polveroso. Un giorno però vengono notate da un cliente di passaggio. Sentiamo ancora l'avvocato di Carboni, Nino Filastro. Uno stilista di Livorno, Saracino, va alla carrozzeria di Piero Carboni per far riparare la propria macchina e vede esposte su un piccolo soppalco queste sculture che Carboni teneva là fin dagli inizi della sua attività. Dopo che Carboni gli ha raccontato come le ha trovate, Saracino non ha dubbi. Quelle teste sono autentiche e hanno un valore inestimabile. A questo punto Saracino, con una scrittura privata, stipula un accordo con Carboni in cambio del 50% del ricavato di un'eventuale vendita. Saracino ha il mandato esclusivo sulla gestione dell'affare. Saracino tenta in tutti i modi di accreditare queste sculture, si rivolge a molti critici d'arte, riportando una serie di rifiuti, perché ognuno di loro aveva il ricordo della pessima figura che qualcuno aveva fatto, compreso qualche grosso nome, all'epoca della cosiddetta beffa. Mix 24, la storia. Bentrovati, stiamo raccontando la storia dei Modì, dei falsi Modì. Una vecchia leggenda su Modigliani ha creato un vero e proprio mistero a Livorno, città natale dei Modigliani. Non soddisfatto di tre teste da lui scolpite, l'artista le avrebbe abbandonate da qualche parte nel 1909. Dopo il caso delle teste ritrovate nel Fosso Reale, ora sarebbero riapparse in un'officina di proprietà di Piero Carboni nel 91. Appena io le ho viste, non ho avuto dubbi, sono assolutamente autentiche. Queste sono tre autentici capolavori, due specialmente sono capolavori. Da lui si sa, è documentato che nel 9 scolpì tutta l'estate e diceva no, la buttate. Ma un artista io mi butta perché dà retta a quattro coglioni che gli devo buttare nelle fosse, ma lui sapeva di essere un artista. A parte i casi isolati di Carlo Pepi e Enzo Carli, che esprimono un parere positivo, il resto della critica italiana, forse perché scottata dalla beffa del 1984, ignora le testimonianze di Carboni. Secondo i sostenitori dell'autenticità delle tre teste, un'ulteriore conferma sarebbe la presenza di simboli tratti dalla tradizione ebraica e cabalistica che ricorrono anche in alcuni disegni di Modigliani. Una delle tre sculture porta anche una data, 1909. Dunque molti elementi proverebbero che questa volta si tratta davvero di opere autentiche di Modigliani. Le circostanze storiche del ritrovamento, le testimonianze di chi giura di averle viste nella carrozzeria del Carboni già addirittura negli anni 50, la stessa somiglianza tra lo zio del Carboni, il solicchio e il ritratto del mendicante firmato da Modigliani. E infine quei simboli esoterici che ricorrono anche in alcuni disegni di Modigliani. Ma c'è un'altra prova, forse la prova decisiva. L'artista, infatti, oltre alle teste, avrebbe affidato al solicchio anche un grosso baule. Ancora Piero Carboni. E mi ricordavo anche con esattezza tutto quello che c'era dentro quel baule. Una bandiera con lo stemma sabaudo, una sciabola ricurva col manico di cuoio bianco, e poi c'erano diversi libri e un rotolo di disegni. Forte di queste prove, Saracino non si scoraggia. Nonostante i critici le ignorino, egli ha deciso di far autenticare quelle tre teste, e per forzare la mano alle autorità competenti c'è un solo modo: presentare una richiesta di esportazione. Pisa, mercoledì 27 maggio 1992. Su mandato di Carboni, Saracino deposita una delle teste presso la sovrintendenza, richiedendo l'autorizzazione a esportarla in Germania. Secondo la legge, infatti, un'opera può uscire dall'Italia solo se ritenuta di nessun valore artistico, altrimenti la sovrintendenza competente mette il veto e nega il nulla osta. E lo Stato è obbligato ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. La sovrintendenza di Pisa non si pronuncia, anzi risponde con imbarazzo che, considerate le particolari caratteristiche dell'oggetto, per epoca e vicende ritiene opportuno acquisire il parere speciale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Ma anche da Roma non arriva nessuna risposta, e allora, scaduti i 60 giorni che sono previsti dalla legge, Saracino passa al contrattacco e denuncia tutti gli organi competenti, la sovrintendenza di Pisa, quella di Roma, il direttore dei beni culturali, e informa di quello che sta accadendo anche il ministro dei beni culturali dell'epoca, Alberto Ronchey. Senza quell'autentica, infatti, quelle statue non hanno valore e invece sul mercato potrebbero valere decine di miliardi. Saracino del resto è convinto che tutte queste difficoltà per ottenere l'autentica delle teste dipendano dalla beffa dell'84. E allora Saracino fa di più, denuncia per truffa anche Vera Durbet, sempre convinta che le famose teste ritrovate nel fosso di Livorno siano teste autentiche dei Modigliani. Secondo l'atto di denuncia che Giuseppe Saracino presenta insieme a Carlo Pepi nel 1993, gli errori commessi nell'estate di 9 anni prima non sono il frutto dell'entusiasmo e della superficialità dell'amministrazione comunale, ma un atto doloso. In comune qualcuno doveva sapere quello che stava succedendo. A seguito della denuncia di Saracino e Pepi, i carabinieri riaprono le indagini su quanto avvenuto nell'estate dell'84. Da sempre al centro di sospetti mai chiariti viene riascoltato anche Angelo Froglia, e Froglia stavolta decide di rilasciare una versione completa e racconta da chi è stato incoraggiato, aiutato e cosa gli è stato promesso in cambio. Mi sembrava di essere direttore d'orchestra, ma poi alla fine mi sembra di essere uno degli ultimi strumenti, voglio nemmeno quello più importante, no? Dal punto di vista dello svolgimento dei fatti. Le indagini svolte nel 93 individuano in Angelo Froglia il semplice esecutore materiale di un disegno dai contorni confusi ordito all'interno del comune di Livorno. Insomma, per la magistratura c'è stato qualcosa di poco chiaro, ma gli eventuali reati sono ormai dei reati prescritti e quindi tutto viene archiviato. Quello che non va mai in archivio è la battaglia di Saracino per autenticare le nuove teste di Modigliani. Nel settembre del 93 c'è l'ennesimo colpo di scena. A Palazzo Grassi, a Venezia, si apre una mostra di disegni di Modigliani, prima rimasti inediti. Fra questi ce ne sono due che sembrano identici alle teste ritrovate da Piero Carboni. Roma, ottobre 1993. Dopo più di un anno dalla richiesta di esportazione presentata da Saracino, una funzionaria della Galleria Nazionale di Arte Moderna esegue una perizia d'ufficio. La relazione conclude che le tre sculture non possono essere attribuite a Modigliani. A causa di questo giudizio negativo, nel 94, Giuseppe Saracino, Piero Carboni e Carlo Pepi vengono indagati per truffa e contraffazione di opere d'arte. La magistratura dispone immediatamente il sequestro delle tre opere divenute corpo di reato, ma delle tre sculture Carboni ne può consegnare soltanto due, perché di una se ne sono perse definitivamente le tracce. E quando sono venuti i carabinieri del nucleo artistico di Roma, spontaneamente gliel'ho consegnata. La persona al quale io avevo dato incarico di occuparsi della vicenda, con un artificio, con un raggiro, se ne era impossessato e non me l'aveva più restituita. Dopo 7 anni il processo si conclude nel 2002 con l'assoluzione di tutti gli imputati. Nella motivazione della sentenza il giudice monocratico di Pisa evidenzia come tutti gli elementi siano contraddittori e non conclusivi per stabilire in un'aula di tribunale l'autenticità di un'opera d'arte. A riprova della loro buona fede, il giudice sottolinea inoltre la condotta degli imputati, che si sono rivolti alle istituzioni competenti al contrario di quanto avrebbe fatto un falsario. Filippo D'Averio, critico d'arte, conduttore televisivo, autore del libro Il secolo spezzato delle avanguardie, edito da Rizzoli. Com'è possibile che delle statue fatte da ragazzi siano state accreditate come autentiche di Modigliani da autorevoli voci del mondo dell'arte? Beh, per un motivo molto semplice, perché spesso la critica d'arte non guarda le cose, ma guarda se medesima e spera di vedere. Piaceva allora molto questa idea che si scoprisse Modigliani e ci sono cascati come degli allocchi. Modigliani si prestava a una beffa del genere? Oh, assolutamente no, nel senso che è un artista che ha una tale qualità formale che bisogna proprio essere badalocchi per cascarsi. Quindi colpa dei critici in quel caso? È stata una cosa che ho seguito molto da vicino. C'era anche da dire che i critici che ci sono cascati erano abbastanza pronti a cascarci, erano dei critici, quello che si può chiamare dei veri idealisti. Lei invece aveva diffidato subito delle statue? Sì, perché mi immaginavo anche che tipo di burla ci fosse dietro. Ma avrebbero fatto meglio ad esporsi di meno rispetto a quelle statue, quindi a non parlare, per esempio? Ma sì, un attimino così, di prudenza, ma non c'era bisogno di prudenza da guardarle. Filippo D'Averio, forse Modigliani era più bravo come pittore che scultore, è possibile? No, sono due cose completamente diverse, cioè la sua scultura non deriva dalla sua pittura, deriva dai suoi disegni. Lui ad un certo punto comincia a fare questi disegni cariatidi bellissime, che sono dei disegni fatti a matita e poi dopo a inchiostri e acquarelli, dove delinea questo tipo di forma che un po' viene dal suo modo di dipingere, ma è estremamente autonomo. A dire la verità, cioè, se c'è un artista che ha le radici del gusto poi degli anni 20 dell'Art Deco, è proprio lui. Riguardo al caso recente dei bronzi di Michelangelo, cosa si deve pensare? Sono autentici? Lì la questione è un po' più complicata, quella dei bronzi attribuibili o meno a Michelangelo, perché in questi casi esistono le opere somme che sono facilmente comprensibili e identificabili e che sono documentate da sempre quelli che ci fanno da riferimento. E cioè, poi potrebbero esistere delle opere parallele, e lì si apre una casistica infinita, perché tutti quelli influenzati da quel gusto potrebbero essere lui, e tutti quelli che vedono le opere influenzate da quel gusto sperano che sia lui. E quindi come si fa? L'occhio non è sufficiente. Quindi analisi scientifiche? No, è la documentazione, dire sappiamo che apparteneva al tale, siamo in grado di entrare nella storia, oppure di generare dei paragoni talmente significativi con altre opere da poterci convincere. Ma i paragoni con altre opere, in questo caso, essendo dei bronzi, non ci sono neanche. Non ci sono, perché non ne ho... perché... sono gli unici, giusto? Esatto, come uno dice, Giorgio Morandi lo conoscete tutti, quelli delle bottiglie. Domani uno dice, ho trovato un bellissimo quadro di un footballer di Giorgio Morandi. Sarà anche vero, ma è uno che gioca a football. Ma lei che ne pensa di questi bronzi? Che non c'entrano con Michelangelo. Filippo D'Averio, ma esistono secondo lei delle lobby tra critici e mercanti d'arte per alterare il mercato dell'arte? Per alterare. Sono lobby che difendono i loro interessi, i loro portafogli e che sono mosse dai propri appetiti. Cioè, l'essere umano è, come diceva Bertolt Brecht, non è l'atto buono. Quando può, tenta di approfittarne. Quindi e sì. Ovviamente, torno a questo, dipende tutto dalla proiezione che uno ha del proprio lavoro. Cioè, se reputa più importante la propria... il proprio conto bancario. Grazie Filippo D'Averio.